Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, un'altra puntata di Focus Economia, un'altra giornata di passione in borsa, con Milano che perde l'1,6%, Parigi 1,5%, Francoforte pure, Londra meno 0,6%, l'America perde l'1,20%, l'euro è sotto quota 1,40. Che cosa sta succedendo in una sorta di ping pong tra le nevi, le Alpi svizzere di Davos e Wall Street, la Casa Bianca? Si sta innescando, poi vedremo quanto pericoloso sarà e quanta tensione genererà, una specie di braccio di ferro tra mondo delle banche d'affari, mondo della finanza, capeggiato poi dalle quattro banche principali, quindi JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Bank of America, da un lato, e dall'altro i piani di tassazione e soprattutto di controllo dei tetti, degli stipendi dei manager. Stiamo parlando a livello europeo, dichiarazione anche del Presidente Sarkozy che è d'accordo con il Presidente della Banca Centrale Europea Trichet, e insomma queste tensioni si ripercuotono anche sul mercato, oltre che perché si immagina un giro di vite, si immaginano banche centrali che potranno chiedere alle banche di creare più accantonamenti nel futuro, si teme a livello internazionale di una stretta creditizia in Cina, insomma temi che ci stanno accompagnando da inizio settimana, da fine della settimana scorsa, e che vedono in borsa penalizzate chiaramente soprattutto le banche. Unicredit perde il 3,7%, è a 1,95€, Mediolanum il 2,90, il Banco Popolare perde il 2,70, Generali perde il 2,11, Popolare di Milano il 2%, Intesa pure, e chiudiamo con Mediobanca meno 1,5%, Monte dei Paschi in questo momento mi sfugge ma lo troveremo, e poi eccolo qua, meno 1,2%, UbiBanca meno 0,60. Chi va bene? Telecom si è risvegliata oggi sopra l'euro per azione, più 2,2%, Saipem più 1,3%, ST Microelectronics più 1,1% e Campari più 0,3%. Male anche Geox meno 3,40%, Ansaldo, vabbè, dopo la grossa corsa di questi giorni qualche realizzo, meno 2,80, Fiat perde il 2,5%, ci occuperemo anche di Fiat oggi, Bulgari il 2,5%, Buzioni c'è pure, Parmalat perde il 2,3%, Eni il 2%, come Italcementi, Prismian l'1,80% di calo, Exor meno 1,6%, i migliori e i peggiori. E poi passiamo ad altro, Green Vision meno 11%, Tods meno 7,7%, tra i peggiori in assoluto, i migliori in assoluto, Nokia Corporation più 9,8%, Arena più 8%, e poi Pramac più 14,4%. Parleremo quindi di borsa, ma anche e soprattutto nella seconda ora del programma di questo scontro. Politica contro finanza, dicono alcuni, Casa Bianca contro Wall Street, o meglio Main Street contro Wall Street. È uno scontro che è solo agli inizi, e che comunque vede la politica cavalcare, a torto o a ragione questo poco interessa, l'ondata ancora di malcontento e di critiche che riguardano il mondo della finanza, in particolare il mondo americano, ma non solo, anche delle grandi banche europee. Va detto che tutto è stato innescato, poi ne parleremo con calma, quando si è scoperto che Goldman Sachs nel terzo trimestre del 2009 era tornata a fare degli utili splendidi, 3 miliardi di dollari, vado a memoria però, o 2 miliardi e 3, 3,3 mi correggono la regia, e aveva già accantonato, messo da parte 16 miliardi di dollari da distribuire in bonus. Questa cosa qui è deflagrata in America, e da lì la decisione di Obama di cavalcarla, e la decisione di Angela Merkel, di Sarkozy, non degli inglesi, di restare sullo stesso tema. Apriremo invece su vicende purtroppo di casa nostra, il blocco degli operai dell'Alcoa, della statale sarda e poi anche l'aeroporto di Cagliari. Alcoa ha rifiutato l'offerta del governo italiano che sostanzialmente portava il gruppo americano dell'alluminio a pagare l'elettricità nello stabilimento di Porto Vesme vicino a Cagliari un terzo di quanto non la pagasse prima e la metà di quanto sia il costo della media nazionale. Vuole garanzie che l'Europa non interverrà e intanto ha annunciato 6 mesi di blocco per i 600 dipendenti. Nel frattempo manifestazioni anche a Termini Imerese, domani si incontrano governo, sindacati, vertici della Fiat, sul tavolo sempre ricorso alla cassa integrazione del lingotto l'ultima settimana di febbraio e la prima di marzo e anche dichiarazioni su termini imerese. Ne parleremo con il sottosegretario Saglia, che è incaricato proprio dal governo alla delega sulla vicenda di Alcoa e anche partecipa al tavolo su Fiat. Come promesso, poi avremo un approfondimento sul nostro export, dato di ieri, e poi appunto lo scontro tra titani, o meglio tra i titani di Wall Street e la politica che cerca di riconquistarsi un ruolo. Potremmo vederla così. 349-238-6666 per i vostri sms. Le altre notizie in breve. Petrolio sempre fermo a $74 al barile. Dal mondo del petrolio arriva anche un accordo tra Total ed ERG, una joint venture quindi francese e italiana nel settore della raffinazione e del marketing in Italia. Nascerà una nuova società che sarà denominata Total ERG e le quote di partecipazione saranno del 49% di Total e il 51% di ERG. Praticamente la fusione di Total Italia con ERG Petroli opererà con entrambi i marchi dei due soci. Vicenda Toyota. Allora, la Toyota ha annunciato, come alcuni di voi già hanno sentito, che ha ritirato e che interromperà la vendita di 8 modelli già oggetto di richiami la scorsa settimana per possibili difetti ai pedali dell'acceleratore. Un dettaglio, no? E questi modelli sono la Toyota Camry, la RAV4, la Corolla, la Matrix, la Sequoia, la Tundra, la Avalon e l'Highlander. Nomi imponenti, inquietanti, ma insomma evidentemente qualche problemuccio ce l'hanno, e fermerà tutte le produzioni, questo è un problema serio invece, negli impianti americani e canadesi a partire dalla prima settimana di febbraio e probabilmente per 5 settimane. Finora sono state richiamate 4.800.000 auto Toyota, e anche in Cina, la notizia di poco fa, verranno ritirate 75.000 vetture per problemi tecnici. E le conseguenze sono state che l'agenzia di rating, una di quelle che danno il voto al debito delle società, e mi riferisco a Fitch, ha subito abbassato le prospettive per Toyota. Il credit watch, come si chiama in gergo, è diventato negativo. Allora ne parleremo, ripeto, nella seconda ora, è inutile che scriviate subito adesso, però questo pomeriggio, un'ora fa, Jean-Claude Trichet, parlando a Davos tra le nevi svizzere, ha detto: non esiste, l'ho aggiunto io, le banche devono essere più trasparenti e il punto principale adesso è quello di ristrutturare i loro bilanci affinché siano in grado di fare il loro lavoro, ovvero finanziare l'economia reale. E per quello che riguarda altri i temi più caldi, devono farlo, ha aggiunto Trichet, con ogni mezzo possibile, mettendo da parte e quindi rinunciando in qualche modo ai loro utili per rafforzare i bilanci, quindi meno utili, meno dividendi e più rafforzamento patrimoniale, evitare di distribuire ampi dividendi, pacchetti remunerativi o bonus. Questo lo dice il Presidente della Banca Centrale Europea, il che vuol dire che la linea della BCE è questa, questo vuol dire che la linea anche delle altre banche centrali dell'euro, ecco perché soffrono così tanto i titoli bancari. E Goldman Sachs continua a cercare di mettere delle pezze dopo che ha creato sto putiferio annunciando 16 miliardi di euro di bonus nel 2009. Ha fatto sapere che la retribuzione dei vari partner sarà per il 60% in azioni, per il 40% in contanti. Poi nelle settimane scorse aveva indicato che buona parte di questi che avrebbe destinato, mi sembra, mezzo miliardo di dollari in beneficenza, ma insomma ormai la frittata è fatta. Restiamo negli Stati Uniti. Le richieste di sussidi alla disoccupazione dell'America sono andate peggio delle attese, sono diminuite di sole 8.000 unità, ma ci si attendeva un calo ben più forte, e restano i sussidi alla disoccupazione a quota 470.000 negli Stati Uniti. La Grecia, secondo diversi quotidiani europei, cito alcuni francesi e tedeschi soprattutto, i vari paesi dell'area euro starebbero pensando a un salvataggio tout court dell'economia greca. Ricordate, ieri è schizzato ai massimi da sempre la differenza tra quanto rende un'obbligazione a 10 anni in Grecia e quanto rende l'equivalente obbligazione in Germania, lo spread con un boom tedesco. E oggi il premier greco George Papandreou, in un intervento al World Economic Forum, ha detto, quindi a Davos, ha detto: beh, noi rispetteremo i criteri di Maastricht e dentro il 2010 riporteremo il deficit sotto il 3%. Io glielo auguro, anche perché l'anno scorso era, si è scoperto che invece che essere al 3.9 era al 12.3, per cui auguri veri ai greci, alla manovra finanziaria in Grecia. Mentre in Italia continuano a toccare nuovi minimi storici i rendimenti delle obbligazioni, sotto l'1% l'asta di oggi dei CCT, 0,98%. Per quello che riguarda il piano Calabria, ne hanno parlato già i nostri GR, ma insomma la parte economica ha a che fare con il via libera del Consiglio dei Ministri al piano straordinario Sacconi contro il lavoro nero in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, un'operazione a tappeto dopo i fatti di Rosarno, 550 gli ispettori coinvolti che effettueranno controlli in 20.000 aziende, soprattutto del settore edilizia e agricoltura. Nel frattempo, secondo i risultati dell'azione ispettiva resi noti dal Ministero del Lavoro, oggi, diciamo, durante il Consiglio dei Ministri, a fronte di una diminuzione delle violazioni di carattere formale, meno 28%, sono fortemente aumentate le violazioni accertate in materia di lavoro nero, più 44%, di appalti più 193%, di orario di lavoro più 120%, tutto questo di rispetto dello statuto dei lavoratori più 200%, di truffe nei confronti di istituti di previdenza e di sicurezza sul lavoro più 480%. Sì, sarà anche un effetto della crisi, ma insomma vedere che è aumentato in questo modo il ricorso ai contratti in nero non è una bella cosa. E volete sapere se oggi c'è una buona notizia? Bah, insomma, mica tanto, altre volte sì, non le creiamo noi. Ricordo il principio che noi le notizie le raccontiamo, non le creiamo. Comunque, sempre in tema di criminalità, il presidente Confindustria Marcegaglia ha apprezzato la volontà del governo di fare una battaglia forte contro la mafia e ha ricordato che oggi Confindustria ha adottato una delibera che obbliga gli imprenditori vessati dal pizzo a spoggio e denuncia, altrimenti, come già avvenuto in Sicilia, verranno espulsi dalla Confindustria o sospesi dalla Confindustria. Bene, passiamo al primo tema. E che riguarda, mi rendo conto che ci sarà una delusione per chi si aspettava la buona notizia, i problemi dell'occupazione, vicenda Alcoa da un lato e vicenda Fiat dall'altro. Nel giorno in cui scopriamo con i dati Istat che c'è stato l'anno scorso un calo nell'occupazione delle grandi imprese, anche se non così importante, ma la cosa più importante che il dato di Istat ci dice oggi è che le grandi imprese hanno fatto un ampio ricorso alle ferie e alla riduzione effettiva dell'orario di lavoro, integrando in questo modo anche la cassa integrazione straordinaria e ordinaria e i patti di solidarietà. Era un dato che già avevamo intuito, ma oggi c'è la conferma dell'Istat, perché praticamente si sono lavorati 3 giorni in meno in media l'anno scorso rispetto al 2008, come ferie forzate, appunto ricorso a vari tipi di ferie dovute, mettiamole così, di permessi. Questo nel giorno in cui peggiora sensibilmente la vicenda dei dipendenti dell'Alcoa di Porto Vesme, e non solo, perché l'Alcoa ha anche lo stabilimento in provincia di Venezia. Eh sì, continuano le proteste dei lavoratori dell'Alcoa dopo la decisione della multinazionale dell'alluminio di fermare per 6 mesi la produzione nello stabilimento sardo di Porto Vesme e in quello veneto di Fusina. Stiamo parlando di uno stabilimento, quello sardo, dove lavorano 600 persone e altre 120 persone lavorano a Fusina. Una vicenda che stiamo seguendo fin dall'inizio, in sostanza dopo l'annuncio dell'Alcoa, un annuncio arrivato a fine anno, a cavallo tra 2009 e 2010, che stava valutando la possibilità di chiudere lo stabilimento, si è cercato, il governo ha cercato di correre ai ripari sfruttando come elemento competitivo quello che è il costo dell'elettricità. Va infatti fatto notare che a causa dell'inadeguatezza della rete elettrica e delle infrastrutture in Sicilia e in Sardegna l'elettricità raggiunge dei prezzi altissimi, 57 euro per 1000 kW è la media nazionale, in Sicilia si arriva a pagare 90 euro per 1000 kW, in Sardegna 100 euro per 1000 kW, siamo quasi il doppio della media nazionale. E questo chiaramente con uno svantaggio anche per le imprese e soprattutto per un gruppo come Alcoa, che producendo alluminio è un gruppo cosiddetto energivoro, utilizza moltissima elettricità. Da lì la proposta del governo di ottenere elettricità a costi decisamente più bassi, pagandola 30 euro per 1000 kW, quindi quasi un terzo, comunque la metà almeno, in cambio della disponibilità, come già avviene per alcune imprese nel nord, di poter avere l'elettricità staccata qualora si raggiungessero dei picchi di consumo in Sardegna. Questa è la decisione che aveva preso il Consiglio dei Ministri venerdì scorso con un apposito decreto. Una nuova riunione prevista per il 5 febbraio, ma in sostanza Alcoa ha detto no, quel piano lì non ci basta, non ci soddisfa, e infatti bloccheremo gli impianti per 6 mesi. Questa mattina, come già raccontavano i nostri GR, i lavoratori dello stabilimento di Porto Vesme hanno bloccato la statale 131, la Carlo Felice, quella che collega Cagliari con Sassari, e poi in tutte le direzioni. Vogliono appunto scongiurare la chiusura dello stabilimento, blocco stradale a oltranza, e poi a ora di pranzo è bloccato anche l'aeroporto di Cagliari Elmas, hanno deciso i manifestanti a sorpresa di togliere il blocco dalla statale 131 e di dirigersi verso l'aeroporto. Alcune delle voci dei manifestanti: come abbiamo detto al prefetto, noi ormai non governiamo più, noi ormai non abbiamo più il posto della situazione, la gestione è incontrollabile, noi non riusciamo davvero più a usare un linguaggio con i lavoratori che sia comprensibile e capibile, perché vedono giorno per giorno la fabbrica spegnersi. Era l'ultima spiaggia che ci è rimasta, questa, dovevo per forza farci sentire ancora una volta dall'Alcoa e dal governo. È l'unica cosa che ci rimane da fare, insomma, cercare di farci sentire ancora, oltre a quello che abbiamo fatto, perché siamo stati svariate volte a Roma. Chi è Alcoa, chiedono alcuni di voi al 349-238-6666. Beh, è un colosso dell'alluminio, il terzo produttore al mondo, è presente in 31 paesi, è un gruppo americano, statunitense, con 63.000 dipendenti e 27 miliardi di giro d'affari. In Italia, oltre ai dipendenti di Porto Vesme e di Porto Marghera, la Fusina, ci sono in tutto 2.500 addetti. Sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico Stefano Saglia, buonasera. Buonasera. Dunque, lei ha la delega per trattare con i vertici dell'Alcoa e con i sindacati proprio per lo stabilimento di Porto Vesme, quindi la vicenda Alcoa. Poi, visto che domani è un giorno importante anche per la vicenda Fiat, faremo anche un riferimento a Termini Imerese. Però vorrei capire, voi avete offerto all'Alcoa di pagare l'elettricità meno della metà, un terzo di quello che la stava pagando, e non è bastato. Secondo lei perché? Perché purtroppo la multinazionale ha deciso di non fidarsi, non tanto dell'Italia quanto dell'Europa, e hanno dichiarato che sono intenzionati a riprendere l'attività non appena il decreto legge che noi abbiamo approvato, che ha approvato il Consiglio dei Ministri, sarà notificato e validato da Bruxelles. Questo perché in precedenza, negli ultimi 10 anni, l'Alcoa ha ricevuto delle tariffe speciali che sono poi state impugnate dalla Commissione Europea e è stata data loro una multa. Prima considerazione, quella multa era di 600 milioni di euro, il governo ha fatto in modo che fosse dimezzata, 300 milioni, sempre una somma molto grande. Però poi noi abbiamo messo in campo una serie di misure assolutamente inoppugnabili che portavano il prezzo a 34 euro al megawattora. L'Alcoa ci ha detto in riunione che 34 era troppo alto, lei ha già detto quali sono i prezzi di energia, quindi gli ascoltatori certamente capiscono che era già un prezzo molto basso. Abbiamo fatto un decreto legge che è inattaccabile, quindi è già stato utilizzato in altri settori, in altri paesi, questo strumento della interrompibilità. E nonostante questo, l'amministrazione da Pittsburgh, Alcoa, ha fatto sapere che aspetta questa scadenza. No, mi scusi, io non ho capito, loro vogliono che il decreto venga convertito in legge, che diventi, cosa vogliono? Allora, il decreto legge intanto è un decreto legge, quindi è immediatamente esatto, e ha teoricamente 60 giorni, però dicono che la misura deve essere validata e non impugnata dalla Commissione Europea, garanzia che noi gli abbiamo dato. Peraltro questo prezzo noi con il decreto legge lo garantiamo per 3 anni, come loro avevano chiesto, 2010, 2011, 2012. Cioè loro hanno paura che Bruxelles vi bocci la cosa o possa frapporsi come aiuto di Stato. In realtà immagino, insomma, di fatto l'unica obiezione possibile potrebbe essere un vantaggio, però visto che è già stata usata, riguarderebbe non la singola azienda, perché riguarderebbe tutte le imprese sarde, se non ho capito male. Tutte le imprese sarde e tutte le imprese della Sicilia. E tutte le imprese siciliane, esatto. Voi siete convinti che con un certo margine di sicurezza che Bruxelles non porrà nessun ostacolo su questo? Noi ne siamo praticamente sicuri. È questo che non siamo riusciti, è per questo che il ministro, il sottoscritto hanno definito incomprensibile questa decisione, che per di più dà anche un impatto sociale che, come sentivamo le voci dei lavoratori, rischia di diventare un po' difficile da gestire. Ora, io non voglio gettare benzina sul fuoco perché ovviamente la situazione è delicata. Però anche i lavoratori hanno riconosciuto che il governo ha dato tutti gli strumenti possibili a questa azienda per poter restare in Italia. E allora, se il problema è un altro, perché tutto questo è iniziato con un tavolo che riguardava l'energia. L'Alcoa ha dichiarato: se l'energia è 30, noi andiamo avanti. Allora, se il problema è un altro, allora bisogna aprire un altro tipo di tavolo. E a questo punto come la potremmo sbloccare, perché voglio dire, Bruxelles in che tempi potrebbe dirvi va tutto bene, non c'è nessun rischio di che questa decisione diventi aumento di io penso che bastino un paio di mesi, anche se sappiamo che c'è questa diciamo cambio della guardia della commissione che non si è ancora consumato, per cui sarà meno dei 6 mesi annunciati, però a quel punto davvero Alcoa un minuto dopo deve riaprire gli impianti. Quello che ovviamente preoccupa i lavoratori e anche noi, che questo è un impianto che non si accende e si spegne come una lampadina, ha bisogno di manovre e procedure particolarmente complesse ed anche costose, quindi io non credo che chiudere per pochi mesi sia anche da un punto di vista economico e finanziario conveniente. È per questo che noi abbiamo, d'accordo col sindacato, tentato un'ulteriore prova d'appello con l'incontro di Palazzo Chigi, in modo che anche il Presidente del Consiglio faccia pressione sull'amministrazione americana, perché chiaramente non possiamo tollerare comportamenti che siano lesivi della nostra legittima volontà di far andare avanti un'impresa. Quindi dice, lei ritiene che forse si possa avere sicuramente in meno di 6 mesi, però appunto nel frattempo cosa facciamo? Perché qui insomma il blocco delle attività significa, loro dicono per almeno 6 mesi, significa comunque cassa integrazione. Beh, innanzitutto abbiamo già detto all'azienda che, vista la situazione così peculiare e particolare, visti gli sforzi del governo, alla cassa integrazione deve essere integrata al 100% all'azienda. Questa è una richiesta che abbiamo fatto esplicitamente insieme ai sindacati e all'azienda, e quindi mi aspetto che dal 7 di febbraio questo avvenga, perché l'interlocutore comunque dovrebbe essere un interlocutore che ha a cuore anche la propria immagine nel mondo, insomma. È un comportamento, francamente, che ho avuto modo di dire anche in sede istituzionale, è davvero incomprensibile. Senta, sottosegretario Saglia, diciamola tutta, qui non c'è il rischio che l'Alcoa voglia smobilitare, basta, voglia chiudere, basta? Beh, è chiaro che io questo non l'ho mai voluto dire, perché c'è una situazione che va mantenuta nella massima calma e serenità, però è evidente che chi lo pensa è legittimato a pensarlo, perché noi abbiamo sempre cercato di evitare questo pensiero, ma a questo punto purtroppo questo pensiero è legittimo, fermo restando che le comunicazioni che ci sono state date non vanno in questa direzione, cioè l'Alcoa dice: io resto in Italia, quando c'ho il timbro di Bruxelles riparto e ricomincio, magari non ricomincerò più in regime perché c'è una crisi di mercato, per carità di Dio, questo accade in tutti i settori, però in particolar modo sull'alluminio primario mi sembra che il mercato si stia riprendendo, cioè, e che comunque il prezzo delle materie prime sia abbastanza rilevante, per cui non credo che ci siano dei problemi, neanche di crisi settoriale. No, e tra l'altro va ricordato che in Italia nel settore alluminio lavorano 25.000 addetti, quasi 20.000 le aziende, complessivamente 11 miliardi di giro d'affari. Noi siamo il secondo consumatore di alluminio in Europa, e dopo la Germania, ma siamo il primo produttore di alluminio ottenuto dal riciclo. Comunque, questo per quello che riguarda Alcoa, e speriamo appunto che si possa anche trovare una soluzione il prossimo 5 febbraio e che Bruxelles ci metta il meno tempo possibile, anche se poi gli americani sono molto rigidi su questa posizione. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Commenteremo tra poco anche l'ennesima seduta difficile per la borsa, in particolar modo per i titoli bancari, anche se devo dire che molto ha recuperato Piazza Affari, ha perso alla fine lo 0,5, no scusatemi, stavo leggendo il FTSE, no, il FTSE MIB ha perso, è andato anche peggio, meno 1,8%. Parigi meno 1,90%, Francoforte meno 1,80%, Londra meno 1%, l'America sta perdendo l'1,6%, dicevo particolarmente male i bancari, meno 4%, Unicredit meno 3%, Banco Popolare e via così. Sarà anche il tema della seconda ora del programma. Sottosegretario Stefano Saglia, lei che domani parteciperà, adesso non parliamo più di Alcoa, parliamo di Fiat, di Termini Imerese in primo luogo, lei domani parteciperà al tavolo convocato dal ministro Scajola, tavolo complessivo sulla Fiat, non solo su Termini Imerese, in cui si parlerà di tutto, anche di incentivi. Le faccio una domanda, fermo restando che oggi Sergio Marchionne ha detto io insomma preferirei pagare gli stipendi a tutti i dipendenti di Termini Imerese fino alla pensione pur di chiudere lo stabilimento, perché ci guadagnerei rispetto alla situazione attuale. E fermo restando che sugli incentivi, ha detto che senza incentivi ci sarà la cassa integrazione. Abbiamo assistito ieri a una specie di braccio di ferro tra governo, sindacati da una parte e Fiat dall'altro. Partendo da Termini Imerese e difendendo chi non c'è in questo momento, quindi la Fiat. Ma se un gruppo come la Fiat ha uno stabilimento che è in forte perdita. Marchionne dice che preferirebbe pagare gli stipendi fino alla pensione piuttosto che tenere aperto quello stabilimento, avrà il diritto di chiuderlo? Allora, Fiat dice: noi oggi produciamo 650.000 vetture in Italia, promettiamo al governo di farne 900.000, però le distribuiamo su meno stabilimenti di quanti ne abbiamo oggi, perché sennò è diseconomico. Questo è un piano industriale che ha una sua ragionevolezza, però bisogna che Marchionne capisca qual è la storia di Fiat nel nostro paese, dove c'è stato comunque sempre, come del resto in tutti i paesi, un impegno pubblico finanziario nei confronti della casa automobilistica, e che anche in passato, diciamo, il veto a realizzare stabilimenti e impianti nel nostro paese ha fatto in modo che non ci fossero altri investitori. Tutto questo ragionamento che fa Marchionne è corretto, se però è disponibile a ragionare, qualora il governo riuscisse a trovare un nuovo investitore, a lasciare lo stabilimento a coloro che ritengono di poter comunque fare una macchina a Termini Imerese. Su questo io penso che si possa discutere. Quello che noi non possiamo assolutamente considerare è che si chiude Termini punto a capo, cioè ci vuole un impegno di Fiat anche sulla riconversione. E per quello che riguarda gli incentivi, perché Marchionne ha detto un'altra cosa, ha detto insomma è chiaro che se non ci saranno gli incentivi noi ricorreremo alla cassa integrazione, quella già annunciata, mi sembra che fine febbraio, l'ultima settimana di febbraio, la prima settimana di marzo, per tutti gli impianti, tutti gli stabilimenti Fiat, quindi sono 30.000 dipendenti. Anche qui si è parlato di ricatto, alcuni di voi, i sindacati, alcuni esponenti del governo hanno detto ma Marchionne sta ricattando, però io difendo sempre chi non è presente, lo dico anche a chi scrive. Ieri abbiamo fatto sentire i sindacati, abbiamo fatto sentire la voce del ministro Scajola, però anche qui è un calcolo economico, senza incentivi con questo mercato dell'auto noi ricorriamo alla cassa integrazione. Perché parlate di ricatto? anche qui il ragionamento pare non fare una grinza. Il punto però qual è? Io in questo senso forse non sono in linea con tutti gli altri rappresentanti del governo. Io sono un sostenitore dell'atterraggio morbido degli incentivi, perché noi almeno per il 2010 abbiamo bisogno ancora degli incentivi. Abbiamo bisogno ancora di incentivi non solo per Fiat, ma anche per l'indotto, che significa probabilmente un impatto occupazionale che è 2, 3 volte, 4 volte quello che è l'occupazione diretta del gruppo Fiat, perché sappiamo che siamo bravi a fare delle le componenti, di auto, certo. anche di componenti che vanno su Volkswagen, vanno su Mercedes, vanno su altre marche. Per cui io gli incentivi aspetterei l'Europa, che si riunisce il 9 di febbraio, e insieme agli altri paesi europei li rinnoverei con tutte le cautele del caso. È chiaro però che il comportamento di Fiat con questo annuncio alla vigilia del tavolo col governo è una tempistica che legittima loro che pensano che sia un ricatto. Allora, siccome le due cose devono restare separate, perché non c'entra il tema incentivi con la questione produzione gruppo Fiat, o almeno c'entra per un pezzo, c'entra per la quota di mercato che ha Fiat in Italia del 100%, c'entra di più con una decisione a livello europeo, io mi aspettavo che questo tipo di dichiarazione potesse essere successivo al governo, perché guardi che il governo deciderà di fare gli incentivi, uno in base all'armonizzazione della decisione a livello europeo e due in base alle disponibilità di bilancio. Non sarà una decisione determinata dall'atteggiamento meno di Fiat, e anzi a Fiat non conviene che sia così. E lei è la stessa Fiat che facendo così ha fatto in modo che le due cose combaciassero. Adesso ho capito, quindi, come già appariva ieri, voi dite è il timing, il tempismo che ci ha così lasciato perplessi, urtato, dato fastidio, visto che appunto a inizio febbraio si riunisce a Bruxelles, potevano aspettare prima dell'annuncio, ho capito correttamente? Esattamente così. Vabbè, bocca al lupo domani e vedremo che cosa capiterà nell'incontro fondamentale al Ministero dello Sviluppo Economico con i vertici Fiat e i sindacati, e soprattutto in bocca al lupo ai dipendenti, in questo caso di Alcoa, che stanno manifestando, perché devo dirlo a tutti, è più facile ragionare che ne pensiate voi al governo con Fiat avendo il cuore in Italia che con Alcoa che il cuore e la testa ce l'ha a Pittsburgh. Sicuramente sì, sicuramente sì. E quindi spero di sbagliarmi grandemente dicendo che la vicenda di Alcoa è ancora più delicata e complicata. Grazie al sottosegretario, grazie al Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Saglia, che ha la delega appunto anche per la vicenda Alcoa. Grazie a voi, arrivederci. E adesso parleremo anche di borsa. Vedo che alcuni ci sottolineano che nel frattempo in Sardegna, se chiedono se abbiamo letto che in Sardegna il G8 che non fu più fatto alla Maddalena è costato comunque come opere infrastrutturali 300 milioni di euro. Sì, l'abbiamo letto, non capisco bene cosa c'entri la vicenda del G8 della Maddalena saltato con uno spreco di risorse, per carità, con la vicenda di Alcoa. Stiamo parlando di un gruppo americano, comunque l'abbiamo letto, è comunque 300 milioni di euro, si spera che almeno queste strutture possano essere utilizzate meglio, mettiamola così. Adesso ci sono le informazioni per chi è in viaggio, poi la borsa, parleremo di banche soprattutto, e poi di nuovo il tema, il ping pong Wall Street Davos, la finanza mondiale cerca di porre degli argini a quello che ritiene essere un attacco della politica, anche oggi Sarkozy, ma anche Trichet, presidente della Banca Centrale Europea, vogliono ridurre i loro bonus, i loro stipendi e vogliono mettere il naso nelle retribuzioni. Poi c'è il caso molto più ridicolo di quella castroneria, diciamo, tutta che è successa ieri al Senato, in cui si volevano equiparare gli stipendi dei manager e quelli dei parlamentari. Vabbè, noi ci distinguiamo sempre, e anche questa selezione della classe politica. Allora, la borsa, dicevamo già che ha pesato sui titoli bancari il braccio di ferro, ne parleremo più avanti, tra e le proposte che sono arrivate in maniera molto netta. Devo dire che vedo che alcuni scrivono al 349-238-6666. Il presidente della Banca Centrale Europea, Trichet, ha detto che le banche devono pensare a aumentare la loro struttura patrimoniale, quindi rinunciando anche ai dividendi, mettendo quindi i soldi degli utili dentro il patrimonio e rinunciando anche ai bonus e l'auto, i compensi. È un segnale netto che l'Europa, poi vedremo se lo farà, vuole andare nella direzione americana. Sarkozy ha detto che Trichet ha ragione, la Merkel lo sostiene da tempo, la Gran Bretagna è fuori dall'euro, per cui la partita se la giocano Francia e Germania, e per quello che si riesce anche l'Italia. Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Male quindi le banche per questo motivo. Perché però Unicredito perde più della media? Voglio dire, Unicredito perde il 4%, Banco Popolare il 3%, Intesa il 2,40%, la Popolare di Milano il 2,30%, cos'altro manca? Monte dei Paschi perde l'1,3%, UBI Banca pochissimo, lo 0,30%. Perché, voglio dire, tutte le banche vanno male ma Unicredito va peggio delle altre? Certo, Unicredit, che come dicevi tu è stata la peggiore e inoltre ha chiuso sotto la soglia dei 2 euro per la prima volta dall'agosto dell'anno scorso, e dalle sale operative si segnala quello che è stato un po' la costante anche negli ultimi mesi di turbolenza sulle banche. Unicredit, quando le banche sono vendute, è quella che ne risente di più, perché è la banca come più esposta in zone come l'Austria, la Germania e l'est europeo, in cui i mercati temono ancora possano, da cui i mercati temono ancora possano arrivare brutte sorprese. Inoltre si segnalano sul titolo Unicredit, che ha voluto anche volumi molto elevati, oggi doppi rispetto alla media giornaliera dell'ultimo mese, si segnalano, dicevo, movimenti tecnici, perché oggi è la vigilia della scadenza del termine per l'esercizio dei diritti sull'aumento di capitale da 4 miliardi. L'ultima giornata per esercitare i diritti sarà domani, e quindi diciamo che gli investitori stanno anche movimentando i titoli in vista di questo appuntamento tecnico. Il titolo comunque sì, è stato il peggiore tra il paniere principale, come dicevi tu, ha perso oltre il 4%. Allora, Geox male pure, meno 3,2, Banco Popolare l'abbiamo detto, Ansaldo, beh, realizzi, ha corso moltissimo in questi giorni, meno 2,7, Mediolanum un meno 2,7, Bulgari meno 2,6, Generali perde il 2,6, Fiat ancora il 2,5%. Immagino che le dichiarazioni del presidente Montezemolo di un gennaio, che ha confermato un gennaio con un calo di ordini, non abbiano aiutato. Sì, esattamente. Fiat in avvio aveva tentato un timido rimbalzo dopo che, ricordiamo, ieri aveva perso quasi il 5%, però poi le parole di Montezemolo, che ha parlato di un crollo degli ordini in gennaio addirittura peggiore rispetto al gennaio dell'anno scorso, non hanno aiutato, insieme al calo di tutti i listini, e Fiat ha perso il 2,56%, chiudendo sotto i 9 euro, ha chiuso a 8,77 euro, ed è la prima volta che chiude sotto i 9 euro dal settembre del 2009. Ancora, hai ragione, hai fatto bene a far notare che dal settembre del 2009 che non chiudeva a questi livelli Fiat, sì. Andiamo avanti con i settori. Ieri ST Microelectronics ha diffuso i dati a Parigi, il nostro Sergio Nava ha intervistato l'amministratore legato, il titolo ha preso una scoppola. Oggi si cambia, e vorrei capire se sì, perché ST guadagna 1,4 e Nokia, sempre stare sul settore, è il secondo miglior titolo con un rialzo dell'11%. Che cosa è successo che ci siamo persi in queste 24 ore? Beh, per ST, come ricordavi tu, oggi è un movimento legato soprattutto a quello del comparto tecnologico europeo, che è stato trainato proprio da Nokia. Nokia ha diffuso i conti, che sono risultati migliori delle attese, e a Helsinki guadagna circa appunto l'11%. Nokia tra l'altro è il principale cliente di ST, quindi ovviamente un buon andamento dei conti di Nokia. No, e lì sono fatti, non altro, perché c'è un utile che cresce del 65% a 948 milioni di euro, ma soprattutto sopra le stime erano sui 570 milioni di euro, quindi insomma un utile che quasi doppio rispetto alle stime. Parlo di Nokia, eh. Certo, e infatti il settore tecnologico europeo, il sottoindice di comparto, ha guadagnato l'1,84% ed è praticamente l'unico positivo oggi in Europa, sì. Quindi ST ha beneficiato di questo, e inoltre i mercati ieri avevano reagito ai conti che tuttavia oggi, secondo le analisi di alcune banche d'affari, non erano, insomma, sono stati in linea con le attese, e molti analisti puntano sul possibile recupero della marginalità della società una volta volta che sarà chiusa la ristrutturazione in corso. Infatti oggi sia Deutsche Bank che JP Morgan hanno alzato il target price, e quindi anche molti di quelli che ieri avevano alleggerito le posizioni hanno approfittato dei prezzi più convenienti, magari per ritornare sul titolo, che comunque sul finale ha limitato i guadagni, ha chiuso un rialzo dell'1,37% a 5,92. E adesso passiamo a Don't Cry For Me Telecom Argentina, più 3,1% oggi sopra l'euro per azione. Che succede? Telecom, come al solito, molto volatile in questi giorni. Anche oggi torna la speculazione sul titolo. Da una parte molti osservatori segnalano che il titolo, che la società potrebbe cercare appunto di ritardare l'uscita della Telecom Argentina, e inoltre dalle sale operative segnalano le parole del vice ministro dello sviluppo economico Paolo Romani, che se in passato aveva sempre diciamo così bollato come poco credibile l'ipotesi di una fusione con Telefonica, oggi ha rilasciato una dichiarazione in cui dice che nel caso di fusione con Telefonica il governo comunque manterrà attenzione su come sarà formata la governance del futuro gruppo. Lì la partita è un po' più ampia, perché abbiamo letto anche indiscrezioni che ci sembrano abbastanza realistiche, che ci sia tutto un pacchetto, cioè Autostrade Abertis, che è la spagnola Abertis da un lato, Telecom Italia Telefonica dall'altro, no? Un po' come avvenne al tempo in cui Enel si comprò Endesa, che era l'Enel spagnola, insomma. Un rapporto così, due partite sul tavolo in cui il governo comunque vuol mettere, vuol dire la sua. Autogrill mi interessa perché sale poco, ma sale per un motivo finalmente ogni tanto, non di report ma reale, di mercato, di numeri. Certo, oggi l'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo ha diffuso i dati sul traffico aereo nel mese di dicembre, che hanno fatto registrare aumenti sia sul fronte del trasporto merci che di quello passeggeri. Ricordiamo che Autogrill gestisce anche molti punti di vendita in alcuni dei principali scali aeroportuali europei, quindi il titolo ha beneficiato di queste notizie che fanno intravedere un recupero del comparto anche per il 2010. È stata positiva per tutta la seduta, ha resistito al calo dei listini nel pomeriggio, chiudendo in rialzo dello 0,51%. E questo è per quello che riguarda Autogrill. Dicevo, una notizia che insomma, è legata appunto a dei dati importanti, anche perché Autogrill fornisce, come voi sapete, anche molte stazioni aeroportuali. In una battuta, se riusciamo, vorrei capire quanti secondi ho, ancora un minuto. Paolo Paronetto, come mai l'euro, che è uscito sotto quota 1,40 e 1,39, particolarmente debole, ma non ho visto i titoli legati all'euro, legati al dollaro, andare particolarmente bene? Sì, oggi non c'è stato questo effetto valutario. Del resto diciamo che oggi i temi di seduta erano altri, erano in particolare in avvio un tentativo di rimbalzo che è stato gelato poi dai nuovi timori sulle banche in base anche alle dichiarazioni e alle posizioni che hai ricordato tu inizialmente, quindi diciamo che questo fattore è passato oggi in secondo piano e gli investitori hanno privilegiato altri aspetti. Banche e auto continuano a tenere banco, e sul fronte positivo oggi invece, come dicevamo, c'è stato il tema dei tecnologici, che è stato l'unico in controtendenza, l'unico settore davvero in controtendenza grazie a Nokia. Allora, vedo messaggi di dipendenti del mondo bancario, delle banche, che dicono che stanno tornando a vendere prodotti strutturati, prodotti derivati. Adesso un attimo di pazienza, arriviamo, perché questo, la vicenda è proprio politica, nel senso di potere politico di Wall Street, potere politico dei banchieri, delle banche, e la politica da bordo, la politica con la P maiuscola, che vuole invece tornare a dire la sua dopo che ha subito e si sta ancora leccando le ferite per una crisi innescata tutta, nata tutta, sviluppata tutta, gestita tutta dalla finanza anglosassone, europea, asiatica, poco importa. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Arriveremo tra pochissimo allo scontro politica-finanza a livello diciamo di paesi occidentali, quantomeno, ma anche se pure in Cina non scherza il governo sulle banche. Molti di voi ci hanno chiesto nel frattempo al 349-238-6666, ma perché la borsa penalizza questa ricerca di una maggiore etica, di un maggiore controllo nel mondo bancario, e tutti i titoli bancari oggi sono calati tantissimo? Beh, insomma, perché la finanza ha un ruolo importante in borsa, mettiamola così, e teme che questo giro di vite possa ridurre gli utili e quindi i dividendi dei vari gruppi bancari. È molto semplice il ragionamento, voi dite, ma insomma dovrebbero apprezzare il tentativo di evitare nuove crisi finanziarie, la borsa non ha questa, molte volte, questa capacità di divisione, ammesso che appunto questa sia la visione migliore. Comunque, prima di tutto, prima di arrivare al tema delle banche, occupiamoci anche di un tema che riguarda molto da vicino le imprese, soprattutto quando sono piccole e medie. Mi riferisco ai Confidi, da un lato, e al ricorso appunto ai Confidi. Come sono andati nel 2009, soprattutto nei primi sei mesi, che è il periodo di riferimento? Sono aumentati, hanno toccato praticamente 6 miliardi 200 milioni nel 2008, e rispetto ai 6 miliardi erogati nel 2007, e nei primi sei mesi del 2009 sono stati 3 miliardi e 600 milioni di euro garantiti attraverso i 191 Confidi artigiani. Il presidente della Federazione Nazionale Unitaria dei Consorzi e Cooperative Artigiane di Garanzia, Daniele Alberani, al microfono della nostra Chiara Di Michele, spiega come mai i Confidi siano diventati strumenti fondamentali per le piccole imprese soprattutto. Sono stati strumenti, sono rilevati poi strumenti così importanti perché la loro operatività è praticamente esplosa, nel senso che le aziende hanno chiesto e utilizzato sempre di più la garanzia dei Confidi per poter ottenere dalle banche le linee di credito, insomma, soprattutto nel 2009. Poi tendenzialmente ancora nel secondo semestre 2009 e nei primi mesi del 2010 questo processo continuerà, cioè viene sempre chiesta più garanzia ai Confidi. Il 2010 secondo noi sarà il momento in cui avremo di fronte la crisi completamente, ma abbiamo già, come posso dire, usato molto del nostro patrimonio per garantire le operazioni in essere, per cui per continuare a garantire ulteriormente operazioni bisogna che i patrimoni dei Confidi vengano aumentati in qualche maniera, per cui la richiesta è quella di cercare di patrimonializzare di più i Confidi attraverso i contributi che si devono arrivare dalle regioni, dallo Stato, dalla provincia, insomma da qualcheduno, oppure utilizzando quegli strumenti che lo Stato ha messo in piedi come il Fondo di Garanzia Centrale, che al momento non è molto utilizzato. Sempre su questo tema e sempre al microfono la nostra Chiara Di Michele, il vice amministratore delegato di Unicredit, Roberto Nicastro, immagina che comunque quella tendenza registrata nei primi sei mesi del 2009 si confermi anche per tutto l'anno che si è appena chiuso. Immaginiamo nel 2009 un'ulteriore possibilità di crescita, in quanto sappiamo sui nostri dati che la crescita, la nostra operatività con il mondo dei consorzi fidi è aumentata di circa il 50% rispetto al 2008. Quindi questo ci fa pensare che quando saranno disponibili in futuro dal 2009 questa leadership nostra sia ulteriormente consolidata. Questo vuol dire sostanzialmente che nella difficile reazione ad una crisi che ricordiamo la più profonda da 80 anni a questa parte, la banca ha visto nei consorzi fidi un partner fondamentale assieme al quale riuscire a dare le risposte che il mondo produttivo e economico si attende. Così appunto il vice amministratore delegato di Unicredit, Roberto Nicastro. Un'ultima notizia che riguarda sempre le imprese, le piccole e medie imprese, è un primo bilancio della moratoria sui mutui e leasing. Insomma, sono stati sospese rate e leasing per un totale di 7 miliardi di euro. Questi dati sono aggiornati a dicembre. Hanno fatto ricorso 117.000 imprese, piccole e medie imprese, e ricordo che questo accordo è frutto della mediazione del Ministero dell'Economia e anche della partecipazione chiaramente dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana. Dalle banche italiane, dal rapporto banche e imprese in Italia, ci spostiamo invece al rapporto banche d'affari e politica. Perché? Perché, ripeto, la borsa continua a registrare e incorporare queste tensioni, queste pressioni, secondo il mondo della finanza, queste legittime richieste di maggiori garanzie, paletti e regole, secondo la politica. Questo scontro, oltre che penalizzare tutti i titoli bancari, meno 1,80% in media oggi le borse europee, ha conosciuto oggi un nuovo capitolo. Stiamo parlando di varie regole, non c'entra nulla, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, quello che è passato ieri, il subemendamento proposto da il senatore dell'Italia dei Valori Elio Lannutti ed approvato dalla maggioranza al Senato, in cui si diceva niente stock option, quindi niente bonus azionari per i dirigenti e per gli amministratori degli istituti delle banche, ma soprattutto un tetto ben definito agli stipendi dei manager di quelle delle banche e in generale di tutti i manager delle società quotate. E la cosa che ha fatto obiettivamente sorridere, per essere buoni, è che il tetto massimo di retribuzione di questi manager non può superare il trattamento annuo lordo che spetta ai membri del Parlamento. Adesso che i senatori e i deputati diventino un benchmark per aziende private, obiettivamente non stare in cielo né in terra, alcuni di voi scrivono in maniera un po' ironica, ma non è che in questo modo poi i parlamentari vogliono avere gli stipendi che hanno i manager. Netto e anche un po' tranchant, devo dire, il giudizio della presidente Confindustria Marcegaglia su questo subemendamento: una fesseria totale che va eliminata al più presto. Nel frattempo invece continua il braccio di ferro, dicevo io, tra, da un lato, i quattro cavalieri dell'Apocalisse, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America e Morgan Stanley, le quattro grandi banche d'affari americane, con la politica. Allora, ricordate che il presidente Obama in America ha aperto un nuovo fronte dopo quello iniziato il 14 gennaio con la tassa sulle banche, sui rischi finanziari che le banche si prendono per raccogliere 90 miliardi in 10 anni, e poi il 21 gennaio le proposte per integrare la riforma del sistema finanziario. Obama vuole limitare la dimensione massima che una banca può raggiungere per evitare che diventino quei soggetti che in americano si chiamano too big to fail, troppo grandi per farle fallire. Il caso di AIG è uno su questi, ma tutte, anche la Bank of America, Citigroup, troppo grandi per lasciarle fallire. L'America è un paese da questo punto di vista molto liberista, vuole che anche questi istituti possano essere lasciati fallire senza generare una crisi di sistema. E poi vuole che nessuna banca o istituzione finanziaria investa o sia sponsor di un hedge fund, quindi, o di un fondo di private equity. Non possono accollarsi gli stessi rischi di fondi speculativi, oppure effettuare operazioni di cosiddetto property trading, cioè di compravendita di titoli di investimenti sul mercato con mezzi propri operati dalle banche, che però sono le uniche a guadagnarne. E su questo le dichiarazioni sono pesanti. Intanto saluto e vi ringrazio per averci raggiunto in collegamento l'economista e professore editorialista anche del Sole 24 Ore, Donato Masciandaro, direttore del Dipartimento di Politica all'Università Bocconi di Economia, scusatemi, all'Università Bocconi di Milano. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Le informazioni per chi è in viaggio, poi ascoltiamo Sarkozy, che ieri ha dato ragione a chi vuole misure stringenti. Oggi è tornato Trichet, ha detto che le banche devono fare meno dividendi, distribuire meno dividendi, investire gli utili nel patrimonio, dare un tetto ai bonus, rinunciare ai bonus o ridurre i bonus dei manager. Allora, dicevamo, braccio di ferro, ha chiesto Trichet oggi no bonus e maxi dividendi per le banche. In linea con queste dichiarazioni, già ieri il presidente francese Nicolas Sarkozy ha parlato a Davos, dove ci sono quasi 250 banchieri mondiali, e ha denunciato un sistema finanziario che non funziona e ha generato la crisi economica e finanziaria globale, prendendosela in particolar modo con le banche. Sentiamo. Grandi compensi, grande responsabilità. Penso che le situazioni in cui chi con il suo operato contribuisce a distruggere occupazione e ricchezza senza subire conseguenze sia moralmente inaccettabile. Per esempio, per il presidente di una grande banca francese, io mi sono augurato le dimissioni. Le azioni di un collaboratore della banca, solo uno, ha causato un danno per miliardi di euro. E non è normale che, nonostante un tale malfunzionamento, quella persona resti al proprio posto. Non ci troviamo più in un sistema di responsabilità. Allo stesso tempo ho difeso un imprenditore francese a capo di una delle più importanti società del paese, che prende un salario più accettabile. E l'ho fatto perché è un uomo dalla competenza riconosciuta. Avec un salaire plus confortable parce que c'est un homme à la compétence reconnue. Allora, sarà populista, demagogo, ma insomma fa il politico. Nicolas Sarkozy sta fronteggiando in Francia, come in Italia, in Germania e negli altri paesi, una crisi generata dal mondo finanziario e da questi geni dei manager bancari. Che si sono difesi sempre ieri a Davos, sentiamo Peter Sands, numero uno della banca britannica Standard Chartered, in conferenza stampa. E subito dopo ascoltate anche Joseph Ackerman, che è il numero uno di Deutsche Bank, altra banca che di derivati ne aveva comprati. Comunque li sentiamo assieme e poi vorrei sentire anche Donato Masciandaro. Molte questioni fondamentali verranno sollevate nel corso del forum di Davos e molteplici saranno anche le prospettive di analisi del ruolo che le banche e i servizi finanziari hanno sull'economia in senso lato e del loro impatto sulla società. Io penso che portare avanti questa analisi sia un fatto molto salutare. Penso che sia profondamente sbagliata l'idea che le banche siano tornate a fare business come se niente fosse successo, con gli stessi standard seguiti prima della crisi. Penso invece che le banche abbiano compiuto dei cambiamenti molto significativi nel loro modo di operare e credo che questo processo sarà la base per continuare nel cambiamento. Abbiamo bisogno di un sistema finanziario regolato meglio. Va cambiato il modo in cui il sistema finanziario si relaziona con l'economia reale. We need to make changes to the way the financial system interacts with the real economy. Quest'anno siamo un po' più sollevati perché abbiamo attraversato la crisi grazie all'aiuto dei governi e alle iniezioni di liquidità delle banche centrali. La situazione rimane però molto fragile, complessa e con molte incertezze. La crisi è stata chiaramente globale. La crisi finanziaria era solo l'inizio e si è trasformata in crisi economica. Penso però che di fondo si sia trattata di una crisi strutturale. E questo è un tipo di crisi che richiede un approccio più realistico per arrivare alla soluzione. Penso che occorra riportare equilibrio nel dibattito, soprattutto riguardo le banche. Credo sia necessario un approccio realistico. C'è bisogno di regole consistenti e globali, cioè accettate ovunque. Alla fine, infatti, stiamo tutti lavorando per la gente, non solo per l'economia reale o quella finanziaria. The human beings, not for the real economy, nor for the financial economy. Allora, professor Masciandaro, mi dica che cosa non la convince in questa posizione della politica di Sarkozy, di Angela Merkel, del nostro ministro Tremonti, del presidente della Banca Centrale Europea. La vede populista, demagogica, cos'è che non va? Il fatto che al momento sono degli slogan molto generali, finché non saranno riempiti di contenuti non sono valutabili. Voglio essere molto, molto, molto spero, chiaro. C'è un'identità, attività bancaria commerciale buona perché è al servizio delle imprese, attività bancaria di investimento cattiva perché finanza per la finanza. Beh, questa è una stupidità. Nel senso che ci può essere un'attività bancaria non commerciale, tipo investire in capitale di rischio di un'impresa, che è a vantaggio dell'impresa, non è finanza di per sé. Quindi finché rimarremo sugli slogan generali sarà molto facile dire che sono giusti. Non a caso uno stordito presidente americano dopo la sconfitta elettorale ha potuto fare delle affermazioni ancora molto generiche e avere il plauso di altri politici proprio perché sono prive di contenuto. Il diavolo è sempre nei dettagli, quindi bisogna capire che cosa vuol dire imporre tetti alle retribuzioni, che cosa vuol dire separare l'attività commerciale da quella di investimento, che cosa vuol dire porre un tetto alle dimensioni delle banche. Allora, mettiamola così, professor Masciandaro, abbiamo ancora un paio di minuti. Se questi dettagli poi arrivassero, e quindi se non fosse solo così slogan della politica, Barack Obama l'ha fatto capire, sarà pure stordito come dice lei, ma ha dato delle regole ben precise dopo il 21 gennaio. Se arrivassero anche in Europa, lei sarebbe a favore o contrario? Nel senso che è dell'idea che, che vadano regolamentate maggiormente le banche d'affari nei loro investimenti più a rischio? Se iniziamo a parlare di specifici provvedimenti, per esempio commisurare il rischio all'attività e quindi al rispettivo capitale necessario, qui siamo in un perimetro di economia di mercato e si possono provare a disegnare degli strumenti giusti. Ma lei è stato molto preciso, mi ha fatto una domanda molto chiara. Io non ho mai sentito niente del genere finora dal presidente Sarkozy e dagli altri e dai politici che finora si sono espressi. E gli slogan sono 2 anni che continuano a girare, quindi mi consenta di non entusiasmarmi per l'ennesimo, anche quello di gennaio. Sì, devo dire che non per difendere la politica, ma fino a pochi mesi fa si è tentato di mettere in sicurezza il sistema finanziario. Comunque ho capito la sua obiezione, a questo punto vedremo cosa uscirà da Davos, ma torneremo su questo tema perché non vorremmo che tutta questa crisi che stanno pagando, oggi abbiamo aperto con i lavoratori dell'Alcoa, con le tensioni sugli stabilimenti Fiat, che stanno pagando milioni di lavoratori, sarà populista ma è così, europei e americani, poi non avesse nessuna ripercussione per l'attività finanziaria che questa crisi ha innescato. E riavremo anche lei, professor Donato Masciandaro, spero, per commentare norme concrete. Grazie per ora. Allora, date ancora la colpa alle banche? No, è una resistenza che si sta creando e l'avete sentita da banchieri non italiani, europei, non vogliono questi controlli e la reazione del mercato è molto indicativa, è un messaggio, attenzione, queste regole potrebbero fare calare i corsi azionari, Unicredit meno 4%, Banca Popolare meno 3% e via così, Intesa meno 2,40%, l'America sta perdendo un altro punto e mezzo percentuale, anche lì sempre sui titoli finanziari, questa alcuni la chiamano la reazione o il monito di Wall Street. Staremo a vedere chi l'avrà vinta o se si arriverà a un compromesso. Per ora è tutto, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata e noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.